24 di Giovanni Minoli. Correntista con obbligazione di Banca Etruria si toglie la vita. Gino D'Angelo, 68 anni, 110.000 euro spariti con un click. Erano i soldi di 50 anni di lavoro. Quando si è capito che quattro banche rischiavano di non aprire più, perdendo quindi tutti i posti di lavoro e non i soldi degli, non le azioni, ma i soldi dei conti corrente, noi siamo intervenuti e sono molto lieto della misura che ha preso il governo. La Banca d'Italia ci ha detto che le banche italiane erano sicure. La settimana prima la direttrice mi ha detto che non correvo nessun rischio. Nessun rischio fino a 100.000 euro. O l'importante, anche se falliva, è che non vedessi le obbligazioni. Io mi fidavo e affidavo alla banca. Renzi ha detto che non vi potete sentire truffati. Ah no, perché siete speculatori. La mia mamma, 89 anni, è una speculatrice. Queste banche, c'è appunto Banca Etruria, il cui vicepresidente era il padre del ministro Boschi. Il Movimento 5 Stelle depositerà nelle prossime ore una mozione di sfiducia, questo lo possiamo fare come parlamentare della Repubblica rispetto al ministro Boschi. A me non mi importa che le dia la Boschi, che le dia Renzi, che è, noi se li vuole i nostri soldi. Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Ecco, onorevole Boccia, da lei il ministro Padoan ha parlato di aiuto umanitario nei confronti degli azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche salvate. Più che aiuto umanitario mi sembra un'elemosina, mi sbaglio? Non penso sia stato opportuno parlare di aiuto umanitario. Gli aiuti umanitari li fanno la Caritas, Emergency. Qui si parla di finanza, bisogna parlare di regole e di trasparenza. Ecco, ma chi dovrà pagare questo intervento allora? Io mi sono già espresso. Questo è il risultato di un mercato che per alcuni lustri non è stato trasparente e quindi non si può chiedere oggi che a pagare siano solo i risparmiatori. Dovranno pagare le banche e in parte anche lo Stato. Ecco, le banche dovranno sborsare 3,6 miliardi di euro per il salvataggio. Però sembra che ne stiano già comparendo altre all'orizzonte. Quante potrebbero essere le altre banche che stanno in quelle condizioni? Diciamo con chiarezza dai suoi microfoni che il sistema bancario italiano è solido. Dentro un sistema bancario solido con un risparmio privato delle famiglie importante ci sono state storie di purtroppo naturale opacità che non sono state controllate a sì, dovere. Sì, ma siamo chiari, adesso sembra che ce ne saranno delle altre, a lei risulta? No, ci sono già delle banche in difficoltà nelle quali i risparmiatori non hanno perso con le obbligazioni, ma hanno perso tutto quello che avevano con le azioni. Anche in quei casi io penso che ci siano delle responsabilità oggettive. Ecco, a proposito di responsabilità, il sistema dei controlli sembra fare acqua da molte parti. Il presidente della Consob si è tirato fuori dicendo che si aspettava di essere chiamato in causa dal governo, però non lo è stato. Ha responsabilità la Consob? Guardi, io stimo in Vegas e devo dire che ha stretto le maglie Consob di questi anni. Però è evidente che sono stati venduti da alcune banche prodotti che non dovevano essere venduti. Bisognerà capire se Consob ha denunciato la vendita illegittima di quei prodotti e se invece non essersi mossa è stata la magistratura o Banca d'Italia. E lei cosa ne sa? Ma io penso che dal 2007 con la direttiva MiFID è obbligatorio per ognuno di noi quando va in banca farsi fare il profilo e il 90% del profilo di coloro che vanno in banca è un profilo prudenziale. Quelle obbligazioni subordinate non potevano essere vendute. Quindi non potevano essere. Ecco, vecchiette o non vecchiette, la Banca d'Italia col suo direttore generale Rossi ha parlato di controlli blandi, anzi di controlli fatti con timidezza. Ma possono essere blandi e timidi i controlli della Banca d'Italia? Intanto do atto a Rossi di una prima ammissione di responsabilità però, e di autocritica. No, non possono essere blandi perché se si è blandi si fanno danni che poi incidono sulla vita della persona. Ma non è che siano blandi perché tra la Banca d'Italia e le altre banche siamo di fronte a un intreccio di controllore controllato? Certo, è la storia di questi anni nel nostro paese, solo che 20, 30, 40 anni fa. E diciamolo con chiarezza, i padroni della Banca d'Italia, gli azionisti della Banca d'Italia sono le stesse banche che dovrebbero essere controllate. Sì, anche se non incidono più di tanto sulla stessa Banca d'Italia. Io penso che Banca d'Italia sia finita a volte in un meccanismo di autoreferenzialità che alla fine non ha fatto bene nemmeno alla storia importante della stessa Banca d'Italia. È comunque una storia che è finita, perché da gennaio in poi la vigilanza si sposta a Bruxelles e sarebbe il caso di chiudere questa storia in maniera anche molto onorevole per quello che ha rappresentato nel paese. Ecco, però la Commissione europea intanto è stata durissima nei confronti dell'Italia, sembra quasi che abbia a torto ragione un pregiudizio sfavorevole verso la nostra classe politica, è così, no? Non so se è così, certo io penso che questo sentimento rischia di essere reciproco e la Commissione europea non si è posta problemi quando la Germania ha ricapitalizzato con i propri soldi sia le banche locali e regionali che quelle nazionali. E non solo la Germania. Non solo la Germania, la classe politica italiana di quegli anni soprattutto ha una responsabilità. Di essere stata zitta. Quella di non aver inchiodato chi diceva nel sistema bancario italiano che era solido, solidissimo e che non c'era bisogno di intervenire. Invece c'era bisogno di intervenire, parallelamente ai tedeschi, e avremmo evitato gran parte delle questioni di cui parliamo oggi. Ecco, onorevole Boccia, però lei era al governo con Letta quando a Bruxelles avete accettato il bail-in proposto dall'Europa. Avete sbagliato, eravate distratti, non ve ne siete accorti, cosa è capitato? No, quindi noi hanno anche parlato, ma il bail-in non è sbagliato, il problema di fondo... No, ma non si è discusso quello che capitava prima, quello che sarebbe dovuto fare prima. Non si è discusso nemmeno... quando abbiamo discusso del decreto sulle popolari, che come lei sa io non ho votato, non casualmente, perché questa discussione che stiamo facendo ora sulle modalità di reperimento delle risorse per finanziare le banche, sulle modalità con cui le banche restano sul mercato, doveva essere antecedente alla discussione di quel decreto. Lei sa che Barclays è andata via dall'Italia, ha venduto 89 sportelli e ha pagato che banca e quindi Mediobanca per vendere gli sportelli. La prima volta nella storia d'Italia che una banca vende gli sportelli e paga per vendere. Ecco, però diciamo è capitata una cosa a Bruxelles che rispetto alla quale la politica italiana, lei dice, non siamo stati distratti, però come ha detto lei stesso, tutti gli stati europei nel 2012 hanno messo soldi pubblici negli istituti di credito, li hanno ripuliti. Noi no, dicevamo che non avevamo bisogno, e invece era falso. Perché noi tendiamo a rinviare sempre problemi. Abbiamo fatto l'esempio di prima di Barclays che va via. Appunto, ho capito. Barclays va via perché è cambiato il modo di fare banca. Perché ha capito. Ma perché ha capito, è cambiato il modo di fare banca? Sì, ma da noi eravamo qui tutti zitti, tranquilli. Non c'era problema, nessun governo, tutti zitti. Lo stile italiano è che quando si mette in discussione l'assetto del sistema bancario, tra timore, connivenze, ipocrisie, si tende ad aspettare che succeda qualcosa. È successo. Senta, si è ipotizzato l'uso del modello spagnolo adesso. Ci può spiegare in due parole cosa vuol dire? Intanto se è un modello da copiare o perché? Sì, o perché no? Siamo in un campo di prime volte, quindi modelli... Non esistono. Se ci sono, sono stati sperimentati una volta sola. Certo. L'arbitro... Ma in quel caso cos'è la cosa significativa? L'equivalente della Consob decide se il signor Rossi ha diritto ad un risarcimento. E chi è quell'arbitro? Chi è? E l'arbitro in quel caso sarebbe Consob in Italia. Che invece è quello che in Italia non si vorrebbe avere. Ma io penso che in questo momento ha fatto bene il governo a non indicare né Banca d'Italia né Consob. Senta, a proposito di governo, adesso l'opposizione, l'abbiamo sentito, chiede le dimissioni del ministro Boschi. Il padre del ministro, come è noto, era consigliere di amministrazione di Etruria. Ecco, una banca dai bilanci disastrati. Ma esagerano nel chiedere le dimissioni del ministro Boschi? Fanno il loro lavoro d'opposizione, che però è un modello di sciacallaggio al quale io non mi presto. Quindi lei è assolutamente in disaccordo? Non mi presto e vorrei che questo modello non tornasse più nemmeno... nel mio partito che l'ha utilizzato. Ma visto che l'ha utilizzato nei confronti di altri il suo partito? Io sono garantista di natura, penso che ognuno debba fare la trasparenza del rigore comportamentale, proprio stile di vita, non mi presto a questo inutile sciacallaggio. Non mi presto e mi pento di quando l'abbiamo fatto. Diciamo. No, io non l'ho fatto. No, l'abbiamo, il suo partito. Il mio partito. Dire. Criticavo il mio partito quando lo faceva con il ministro Cancellieri. Ecco, esatto. Alla Leopolda lei c'era? Non ci sono mai andato alla Leopolda. Perché? Non la invitano? No, per la verità. Diciamo, penso che sia un ambiente anche gradevole in cui gli inviti arrivano continuamente ogni anno. Quindi non è andato perché non voleva andarci? No, semplicemente diciamo, quest'anno era impossibile perché ero ad occuparmi di legge di stabilità, ma in generale io penso che nei luoghi in cui si mettono insieme idee tra persone che hanno la stessa visione del paese, è giusto sviluppare quelle idee che siano fra di loro, tra quei gruppi dirigenti. Quei gruppi dirigenti, poi magari un anno ci andrò, ma per portare un mio contributo. È pur sempre il suo partito, o sbaglio? Sì. Ecco, il mio partito, quando il mio segretario mi chiama, e lui lo sa, io ci sono sempre e nei luoghi in cui ci sono le bandiere. Si vogliono le bandiere, va bene. Senza bandiere non guardi, si va. La Leopolda, senza bandiere è una festa da ballo, diciamo. Ma no, è un'iniziativa molto bella, come ne abbiamo fatte tante nei mondi paralleli al PD, ma non era un'iniziativa del PD. Senta, comunque lì si è parlato poco di banche, il presidente Renzi comunque ha auspicato una risistemazione del sistema bancario, anzi sentiamo che cosa ha detto esattamente. La riforma del sistema del credito, quanto mai urgente, come abbiamo visto non soltanto nelle ultime ore, ma direi nell'ultimo anno, a partire dalla riforma delle popolari, sono capitoli di un processo di cambiamento del nostro Paese che non è una invenzione di questo governo. È una priorità nell'agenda politica almeno gli ultimi 20 anni. D'accordo? Che fosse una priorità in dubbio, e ne abbiamo anche discusso, esatto. Che il decreto dovesse essere fatto in quel modo, come noto l'ho detto in Parlamento, non ho cambiato idea 10 mesi dopo, su questo abbiamo idee diverse con il Presidente del Consiglio. Lei cosa avrebbe fatto? Intanto non avrei messo il tetto che abbiamo messo su chi deve fondersi a quali condizioni, su chi deve quotarsi a quali condizioni, perché quando si mettono i tetti si spingono quelli che stanno sotto il tetto a non diventare mai grandi e quelli che stanno sopra a fare operazioni spericolate. E ci sono state secondo lei le operazioni spericolate sulle banche, sulle quattro banche? Ma le quattro banche, quando il decreto popolare è stato fatto, erano già morte di fatto, quindi non ha inciso su quelle quattro banche. Il problema sono tutte le altre che invece devono continuare ad avere un ruolo importante. Comunque di banche si è detto solo questo, a Leopolda si è parlato molto dei titoli dei giornali ostili al Premier. Lei le sembra una cosa elegante? Ma no, io penso che è fisiologico quando nervosismo, quando si guida un paese è fisiologico che si hanno gli occhi puntati addosso e anche le critiche maggiori. Ma accettarle è fisiologico oppure non accettarle è fisiologico? È un esercizio che fa solo bene, fa solo bene a se stessi e fa solo bene di saggezza, alla comunità. Sarebbe italiano. Meglio non farlo, insomma, lasciare stare i titoli dei giornali, insomma, diciamo. Senta, comunque per chiudere, sul caso delle banche Brunetta ha chiesto l'istituzione di una commissione di inchiesta. Lei è d'accordo? Io sono d'accordo se la si fa sul funzionamento del credito negli ultimi 20 anni. Come ha detto il presidente Renzi. Su questo pensiamo d'accordo. Assolutamente allo stesso modo. Vabbè, l'abbiamo trovato una cosa. No, grazie. Iniziano ad esserci. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. E allora adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24. Dentro la notizia. E quindi come comportarsi con le perdite dei piccoli azionisti e obbligazionisti subordinati? Questo è il tema, cioè chi deve pagare. Mario, tu è giorni che quando parliamo sei sempre contrario al rimborso dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti, perché dici che dovevano assumersi il loro il mercato bellezza, è così? Sì, la posizione è esattamente questa. Contrarissimo all'uso dei soldi pubblici, quindi di tutti i contribuenti onesti, al rimborso di perdite di azionisti o obbligazionisti subordinati che siano di Banca Etruria e delle altre banche. Contrario in linea generale al rimborso generale di perdite dovute al gioco sul mercati finanziari, favorevole invece a valutare caso per caso dove c'è stata un'azione fraudolenta o poco etica che ha consigliato un investimento sbagliato al cliente, perché tra questi clienti ovviamente ci sono quelli che erano consapevoli, che giocavano centinaia di migliaia di euro, che erano a caccia di un interesse superiore o di quella che io chiamo la collusione locale, cioè tu dai una cosa a me, tu bancario, certo, banca, e io correntista te ne do un'altra, certo. Ti sottoscrivo le obbligazioni, questa si chiama collusione locale e io non penso che la debba pagare il contribuente italiano. Va bene, comunque mi pare che sia chiara la tua posizione. Pietrangelo, chi deve pagare secondo te? Non deve pagare il contribuente, come dice Mario, ma non deve pagare neppure il cittadino che incappa nelle grinfie delle banche. Allora vorrei raccontarvi e ricordare agli ascoltatori un episodio ben preciso. Nell'ottobre del 2014 succede in Russia qualcosa di simile che coinvolge le banche, le società finanziarie e anche certe industrie, con il rischio di mandare disoccupati migliaia di operai, di mandare sul lastrico tanti cittadini. Sapete cosa succede? Su internet si trova un filmato delizioso. Succede che Vladimir Putin in persona irrompe nei consigli di amministrazione e costringe i plutocrati del 2014, cioè i manager, insomma. I manager, sì, loro li chiamano così e anch'io sottoscrivo secondo il linguaggio dei cosmonauti questo. Va bene, va bene. Li ha costretti a rifondere e pagare e soprattutto ad assumere gli operai. Si fa così. È vero, ho visto il filmato. E la politica è una cosa. Sì, sono filmato pazzesco. A completare il ragionamento, visto, cioè non c'è, mi devono spiegare qual è la differenza tra gli azionisti di Cilio e Parmalat che hanno perso tutto e invece gli azionisti di queste banche e obbligazionisti che invece dovrebbero essere rimborsati. Le dimensioni sono enormi, aspetta, ma certamente, ma qua vale in principio, quindi non, mi devono spiegare qual è la differenza tra un'azienda industriale e una banca, prima di tutto, sotto questo aspetto. Poi altro, dal 2008 ad oggi guardate il mercato immobiliare, allora noi dovremmo dare anche l'aiuto umanitario a chi ha comprato immobili e ci ha perso dei soldi, e quello che cos'è? Non è rischio anche quello? Certo. Insomma, mi pare una, francamente una barzelletta tutta italiana questa. Antonio Patuelli, che è il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Sentiamo lui. Presidente Patuelli, le quattro banche salvate avevano i bilanci in difficoltà, l'abbiamo detto, ridetto, eppure si è andati avanti lo stesso. Ma c'è un'evidente cattiva gestione degli amministratori? La vigilanza le aveva commissariate anche da 2 anni e di conseguenza gli atti penso che saranno resi noti durante i processi che penso che siano saranno, molto probabili. Ecco. Lei, Presidente, conosce molto bene le realtà locali, è stato un pioniere, ha portato a grandi risultati la Cassa di Risparmio di Ravenna. Ecco, nel caso delle quattro banche possiamo parlare di un sistema di collusione locali, per quello che ne sa lei? No, la parola mi sembra esagerata. Probabilmente ci sono stati casi di cattive gestioni del credito appesantite da 7 anni di crisi. Io sono convinto che se la crisi non ci fosse stata, non ci sarebbero stati i casi di queste quattro banche. Ecco. Peraltro, nel resto d'Europa ci sono state centinaia di crisi bancarie negli scorsi anni, di questo genere e ancora più gravi. Il fatto è che non c'è ancora la vigilanza unica in Unione Bancaria, certo. E negli altri paesi gli stati hanno salvato nazionalizzandole o con contributi a fondo perduto. Ecco, la storia dell'Italia è tutta diversa. Infatti, ecco. Parlando del caso specifico, ho letto che l'ex funzionario che ha venduto i bond al pensionato che, poveretto, si è suicidato a Civitavecchia, ha parlato di sudditanza psicologica nei confronti della banca. Cioè, in pratica, se non avesse piazzato quei bond, la banca avrebbe chiuso e loro avrebbero perso il lavoro. Ecco, ma si può immaginare corretto un comportamento del genere in una banca? Secondo me non è solamente scorretto, è scorretto, ma è anche giuridicamente dubbio dal punto di vista del diritto penale. Però le aggiungo che in queste ore stanno uscendo delle agenzie di stampa che stanno portando nuovi elementi. Lei ha visto, in sostanza non le ha comprate direttamente dalla banca il defunto, il povero defunto, ma le ha comprate in un mercato secondario. Di conseguenza penso che l'inchiesta della magistratura che è stata aperta sul caso di specie possa portare a un accertamento di tutti gli aspetti e con tutte le conseguenze, certo, del caso, se fossero necessarie. Senta, ma che le proposte, a prescindere, diciamo, dalla verifica processuale di questo caso, naturalmente, che le proposte di sottoscrizione però siano troppo spesso incomprensibili, è un fatto, cioè che ci sia una mancanza di chiarezza nell'offerta. Quei moduli non sono frutto delle libere scelte delle banche, ma sono applicazione di norme esistenti che si sono sovrapposte, norme di legge, regolamenti di varie autorità di vigilanza e autorità italiane o estere. Ecco, ma voi come banche, voi come banche reagite? La mia opinione, che è pubblica, è la seguente. La lotta al fumo è stata fatta fin dalla seconda metà degli anni Ottanta in varie maniere. Innanzitutto scrivendo a caratteri cubitali obbligatori sui pacchetti di sigarette, nuoce gravemente alla salute. Cioè voi prevedete, quindi, voi prevedete un sistema analogo, insomma. Io chiedo che le competenti autorità, che penso siano europee o per legge di Stato, impongano a tutti gli emittenti e i venditori di titoli che venissero definiti dalle medesime autorità ad elevato rischio di apporre nella prima pagina di questi moduli. Sì, pare come le sigarette, esatto, con gli stessi caratteri cubitali delle sigarette, con scritto prodotto finanziario ad alto rischio. E questa è la proposta che l'ABI ha elaborato. Assolutamente. Diciamo così. E di conseguenza una cosa molto semplice e quindi molto chiara anche. Come molto non c'è stato, non c'è un tabaccaio che possa dire, dice non è vero, fa finta di non guardare. Stappo il pacchetto. Chi la compra lo sa, chi lo compra a quel punto, e abbiamo finito con gli equivoci. Senta, un'ultimissima cosa, Presidente, perché in questo momento lei considera prioritaria la riforma del credito cooperativo? Perché è stata così chiesta dal settore del credito cooperativo. Io ho sentito diverse dichiarazioni, ho letto prese di posizioni e ne ho conferma diretta dal presidente avvocato Assi, il quale confida che il mondo del credito cooperativo diventi una specie di credit agricole italiano, no? Un grande gruppo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS Mario. Ma insomma, Patuelli ti ha convinto? Patuelli innanzitutto è un galantuomo, è una persona che ha fatto bene in una banca a Ravenna, è da seguire. Detto questo, però c'è appunto il mistero che anche tu mettevi in evidenza con voce. Innanzitutto ci sono crediti deteriorati in Italia per 360 miliardi, di cui 200 sono sofferenti. Quindi questo è un carico molto grande Draghi ha detto che bisogna smaltirlo, che va smaltito, e non c'è lo strumento prima di tutto. Poi, tanto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando, della collusione locale, come dico io, io dico soltanto che i 13 ex amministratori, i 5 ex sindaci di Etruria, a un certo punto cumulano 198 posizioni di fido che si sono autoconcessi per la bella cifra di 185 milioni. Maurizio Casari ci chiede a questo proposito: qualcuno ha controllato se qualche dirigente di queste quattro banche ha posseduto obbligazioni subordinate e se ne sia privato per tempo? Sarebbe interessante. Questo vediamo se emergerà. Vabbè, però appunto questa dimensione, cos'è? La dimensione locale. Cioè Banca Etruria aveva 3 miliardi di crediti cattivi, di cui 2 miliardi di sofferenze. Quei crediti cattivi a chi pensate che li abbiano concessi? A minori, a secchi a buttafuoco o ai loro clienti locali che poi non hanno pagato? Questa è una roba dimostra appunto quello che io chiamo il sistema della collusione locale. E francamente, lo ribadisco, non lo voglio pagare io. Mi dispiace. Sembra chiarissimo, su questo sei chiarissimo, un vero liberale. Pietrangelo, tu pensi sia colpa dell'integrazione europea? C'è qualcosa che deriva di lì o è mala gestione interna? Interna sicuramente, perché siamo soltanto periferia e quindi sono conseguenze dell'impero di Francoforte. Detto ciò, appunto, comandano Francoforte, la finanza, però faccio appello al principio di realtà. È l'unico dato politico, qualora fosse un'entità politica, da dare e da dire, è che l'Europa ha creato povertà e continua a creare povertà sulla speculazione. Ecco, Stefano De Polis, che è il direttore dell'unità di risoluzione e gestione della crisi della Banca d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, e lei in mezzo alla tempesta in qualche modo. Senta, se c'è stato uno scambio durissimo tra banche, lei ha sentito tutto quello che abbiamo detto, naturalmente, c'è stato uno scambio durissimo tra Banca d'Italia e la Commissione Europea su come sono andate le cose nel salvataggio delle quattro banche. Ecco, l'Unione Europea dice addirittura che rifilavano ai clienti prodotti che non dovevano essere venduti. Era vero? Sì. Pari, la domanda a mio avviso mette insieme due temi. Sì. La diversità dei punti di vista tra noi e la Commissione europea nasce dal fatto che la Commissione non ha permesso al Fondo Interbancario Italiano Obbligatorio di ricapitalizzare le quattro banche e ciò avrebbe oggettivamente evitato di soluzione. Naturale. Sul tema del collocamento delle obbligazioni subordinate ormai credo che la posizione della Banca d'Italia è molto chiara. Insomma, noi pensiamo che una norma debba vietarne la vendita allo sportello, la vendita ai clienteli delle stesse banche che li emettono. Sì, però nessuno aveva avvertito gli azionisti di obbligazionisti. Insomma, bisogna comunicare molto meglio. Abbiamo sentito l'esempio di Patuelli con le sigarette, insomma è un esempio forte, mi sembra, no? Sì, guardi, da noi c'è grande attenzione a questi temi di comunicazione, soprattutto quando comunicazione vuol dire educazione finanziaria. Esatto, infatti per noi è la risposta, infatti, la risposta importante. Infatti il direttore generale di Banca Italia, Rossi, l'altro giorno ha proprio detto: abbiamo effettuato i controlli necessari, abbiamo realizzato una tutela timida, diciamo, dei clienti delle banche. Ecco, timida perché? No, guardi, timida nel senso che c'è stato uno scarto alla fine, diciamo, dal 2009 al 2010. Il 2009 siamo stati autorizzati dalla legge a costituire l'arbitro bancario. Siamo partiti, ci lavorano 70 persone, l'anno scorso abbiamo risposto a 14.000 richieste di decisione. Nel 2010, qui è una cosa importantissima, la legge di nuovo cambiata e ci ha dato finalmente un potere di intervenire in materia di tutela della clientela. D'accordo. Ma potevamo solo fare norme, poi non fare interventi. E il timido è riferito a cosa? È un'impossibilità. È riferito al fatto che dal 2009-2010 è cresciuto l'impegno a seguito dell'approvazione di queste leggi. Senta, comunque oggi, adesso Banca Italia ha chiesto lo stop delle vendite dei prodotti a rischio. Un po' babbo morto, diciamo, forse andava fatto prima. Abbiamo soprattutto chiesto la vendita dei prodotti subordinati alla clientela, questo sì, è fondamentale. Ecco, ma qual è la vostra linea sul rimborso delle perdite degli obbligazionisti subordinati? No, guardi, noi condividiamo il provvedimento varato dal governo, va nella direzione giusta e soprattutto permetterà di ridurre il danno a quei clienti appunto ingiustamente coinvolti, perché sostanzialmente coloro che gli sono state proposte operazioni non adeguate alla loro situazione finanziaria. Senta, ma la vigilanza non è solo sui numeri, ma anche sui comportamenti dei manager, naturalmente, oppure no? No, assolutamente. Ecco. Assolutamente. E con le nuove regole di Banca Italia, quante sono le banche a rischio di nuovo? guardi non solo sui comportamenti del management, ma negli ultimi anni, in linea anche con una proprio tendenza internazionale, abbiamo molto accentuato l'attenzione su quello che si chiama rischio di cattiva condotta del management, ma non solo del management più alto, ma anche, diciamo, del management operativo, e quindi ecco, questo aspetto è un aspetto centrale, è l'aspetto su cui stiamo lavorando di più. Molto, di rafforzando di più. Ecco, dal 2009 al 2010 stiamo lavorando di più. Ma le chiedevo, con le nuove regole di Banca Italia sui controlli, ecco, quante sono le banche a rischio? Oggi si legge sui giornali che emergono nuove banche con problemi seri. Ma guardi, ne abbiamo già accennato l'altra volta, esatto. Siamo sentiti, diciamo, i grossi problemi, diciamo, sono stati delle banche in amministrazione straordinaria, sono stati assolutamente affrontati. Le altre situazioni sono ovviamente situazioni generali ben note e riguardano, come è stato detto chiaramente già in trasmissione, soprattutto aspetti che possono colpire i soci, il valore delle loro azioni. Senta, ma è una normativa troppo dura quella di che entrerà in gennaio col bail-in, secondo lei o no? Dottor Rossi domenica diceva l'ha definita di stampo calvinista, oggettivamente ha dei tratti di durezza, ovviamente si dovrebbero trovare delle alternative. Cioè ci vorrebbe più elasticità nel bail-in? Dovrebbe esserci più elasticità. E voi farete una proposta? Guardi, qui c'è una normativa già in vigore, quindi bisogna operare nel quadro della normativa. Senta, un'ultima cosa, dottor De Poli, ma i nostri soldi in banca sono al sicuro o no? Perché questa poi alla fine, certo, lei dirà di sì, ma insomma, però bisogna rassicurare sul serio su questo punto. Guardi, io le do un sì senza esitazioni, quindi un po' più di un sì, ma però mi permetta anche di dire che non dobbiamo mai scordare la differenza che esiste e deve, a mio avviso, esistere tra essere depositante o correntista di naturalmente, ed essere un investitore, cioè azionista e obbligazionista. Ecco, con questa precisazione dobbiamo assolutamente essere certi, sicuri e avere fiducia, piena fiducia nel nostro sistema bancario. Grazie. E le quattro banche che sono state poste in risoluzione, che sono banche che hanno un'ottima situazione tecnica. Senta, le leggo un sms che ci è appena arrivato, Enzo da Milano: sono un ex broker che inventava obbligazioni non quotate da vendere ai clienti per guadagnare di più. È molto frequente, Può sicuramente esistere questa situazione, anzi esiste sicuramente, per quello che noi ad esempio cerchiamo di mettere in evidenza i rischi, soprattutto quando una banca, un intermediario vende ai propri clienti strumenti di propria emissione, che ovviamente, in quanto esiste oggettivamente un conflitto di interesse, certo, va molto ben gestito, e in alcuni casi questo conflitto di interesse, come nei subordinati, può essere così elevato che siamo convinti invece vada addirittura vietato completamente. Grazie dottor De Poli. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, sms pubblicità. Mix 24. Beh, tantissime naturalmente le reazioni, perché quando si tocca la borsa, Enzo da Milano ci dice: scusate, ma le famose riserve auree di Etruria, che devono essere enormi, che fine hanno fatto? Io non lo so dove erano, perché non ne ho sentito mai parlare. 3 miliardi di crediti cattivi, abbiamo 517 milioni di perdite nel 2014. Ma dopo cosa leggo? Abbiamo Michele da Bari. Michele, buongiorno. Buongiorno, dica. Grazie per avermi chiamato. Niente, io sono un commerciante improprio. Se mi capita di fare delle incaute vendite, io ce li rimetto io. È bravo. Perché poi evito anche di portarmeli in detrazione, perché c'è da seguire un iter del dire di Dio per fare questo, e devo investire anche altri soldi, devo spendere altri soldi per portarmi in detrazione. Non è che la rimborsa, nessuno. A me che no. mi aiuta. Ma perché dobbiamo aiutare a questi? Grazie. Il governo siamo noi, perché questi qui a me no. Grazie, vedi, Michele. Giovanni. Grazie. Beh, vedi, hai i tuoi seguaci. Sì, no, volevo segnalare agli ascoltatori un articolo perfetto di Massimo Fini oggi sul Fatto Quotidiano. Il titolo è Gli stolti e la rapina che pagheremo tutti. L'incipit, ve lo leggo: il risparmiatore è il fesso istituzionale del sistema del denaro. Dopodiché c'è una riflessione sulla Mission Impossible. Cioè, lui dice che il denaro bisogna dilapidarlo, spenderlo possibilmente a bagasce o al casino. Dopodiché fa una conclusione che, e qui va incontro alla tesi di Mario, che il risultato, uso un'espressione forte, comunque il decreto umanitario varato dal governo ricadrà sulla testa di tutti i contribuenti, la solita soluzione all'italiana, presupponendo sempre il fesso istituzionale. Va bene, va bene, va bene. Comunque senti, sentiamo la canzone di Pietrangio di oggi. You've got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes. And money is all that it takes. Andiamo nella poesia? Eh sì, perché il bello, inteso come canone, sia pure una scatola collocata nella perfezione dell'iperuranio, è stile, e Drella, cui è destinata la canzone, era il soprannome di Andy Warhol. Perché, il verso lo spiega, il sole quando sorge fa da tappezzeria nella camera, e già un lenzuolo ben illuminato diventa arte. Ha chiamato Astolfo stamattina e ha chiesto di fare un appello all'ippogrifo, e all'ippogrifo dice, noi lo ripetiamo, torna. Mario, continuano a uscire notizie. Sì, no, la cosa divertente è che mentre in Italia c'è questa sbornia, questa ubriacatura totale di rimborsi di perdite finanziarie, di gente che è stata sul mercato e poi vuole anche, e non vuole perdere niente pur avendo firmato, eccetera, esclusi i casi di quelli che sono stati veramente, come dire, truffati, sviati e così via. Bene, in Europa, dove si decidono poi le cose, dove i partiti italiani, Lega compresa che si è astenuta, hanno votato il bail-in nel 2014, posso fornire i dati della seduta, le astensioni e i voti favorevoli di PD e Forza Italia. Bene, in Europa, proprio in questo momento, il presidente dell'Eurogruppo, che è Jeroen Dijsselbloem, dice che il bail-in, passaggio dal bail out al bail-in, cioè dai soldi dei contribuenti ai soldi del sistema bancario, è fondamentale, entra in vigore in gennaio e già ora alcune parti sono applicate, quindi tutta questa enorme discussione che si sta facendo in questo strano paese è da fantasilandia. L'avete votato, cioè ti do una sia buona, chiaro. Mario, ti do una buona notizia. Stefania Paganelli ci dice: vi prego di dire che la banca di Cascina, Credito Cooperativo, in questi giorni sta uscendo dal commissariamento ed è stata rimessa in bonis. Bene, siamo contenti. Noi siamo felici. Più è solido il sistema. Ecco, una bella notizia. C'hai una bolla, Mario? Sì, sì, vai, vai. Anche io sono proprietario di un cuore solitario, il mio, questa è una roba Lonely Heart, un pezzo bellissimo, sì. E ci colleghiamo alle cose bancarie, perché le banche sono il volano dell'economia. Senza di quelle bisogna ricordare a quelli che hanno preso appunto la sbornia con il fiasco di vino, che senza banche non c'è finanza, senza finanza non c'è industria, e senza industria non ci sono posti di lavoro, senza posti di lavoro non ci sono stipendi, senza stipendi c'è la povertà. Funziona così, è molto semplice. Aspetta, dove stai andando, minori? Solo per dire una cosa, che ci sono, domani si riunisce la Fed per due giorni, si sta aspettando il rialzo dei tassi, e il petrolio è ai minimi sui mercati asiatici, a $36 al barile di petrolio. Che cosa vuol dire? Che il mercato è dominato alla fine dell'anno dalla paura. Terrore. Dalla paura che nel 2016 la ripresa sia meno forte di quella che è stata già, insomma, deboluccia nel 2015. Quindi wait and see, occhio, state attenti a quello che succede, altro che le sbornie populiste sui numeri che poi alla fine tornano tutti come sempre. Salamino! Dalle peggiori prime pagine dei giornali alle migliori, le migliori prime pagine. Matteo Renzi, riunito coi suoi cari alla Leopolda lo scorso fine settimana, che sarebbe la vecchia stazione di Firenze, ha stabilito la sua Sansepolcro e ha messo alla berlina i giornalisti della parte avversa. E insomma, dall'editto bulgaro di Berlusconi alle scomuniche di Beppe Grillo, fino ad arrivare alla gogna della Leopolda. E Raffaele Lorusso, segretario della Federazione Nazionale della Stampa, ha protestato. E da regime deridere i giornali anti-premier. Ma il premier, cioè Matteo Renzi, non dà solo il bastone, adesso dispensa anche le carote. Ed ecco il mazzabubù. Allora, il mazzabubù di regime ha stabilito, attraverso un veloce elenco di titoli meritevoli, il canone a cui ci adegueremo anche noi, caro Giovanni e caro Mario. Finalmente avremo ospite Matteo Renzi per No, quello non ci spero più oramai. No, Giovanni, io ho saputo cosa vuole da noi. Cosa vuole? Non abbiamo vuole niente. I titoli che stai per dare? No, a parte i titoli, vuole che tutti e tre... Tutti e tre, intanto ci mettiamo il cappello da levare e poi ci facciamo crescere la barbetta e il pizzetto come il papà. Dai. Sì, è un accorgimento iconico, canonico, estetico. Vabbè, proveremo anche con la barba. Quelli mi dicono di stringere e questa è una censura perché io volevo dare i titoli. I titoli meritevoli di Mimazza Bubù. Allora, primo titolo: spezzeremo le reni alle obbligazioni subordinate. Sfiducia alla Boschi oggi su Repubblica. Lei non mollo, editoriale di Ezio Mauro. Boia chi molla. Poi al Corriere della Sera oggi ho visto: Banca Etruria, vertici indagati per il dissesto. È una calunnia, i PM fanno autocritica, abbiamo sbagliato, non c'è stato conflitto di interesse. E il Corriere della Sera, meritevolmente, intervista Stefania Gresti, mamma del ministro Boschi e moglie dell'ex vicepresidente della Banca Etruria. Editoriale di Paolo Mieli: guarda la madre, sposa la figlia. La Stampa di oggi apre con un titolo sui migranti. L'UE avverte l'Italia, impronte anche con la forza. Bruxelles critica il ritardo dei centri di identificazione. Ma Mario Calabresi, direttore uscente e già entrante alla Repubblica, firma un vibrante editoriale monito, impronte anche ai giornalisti gufi. Infine l'Unità. Pininfarina passa agli indiani. Intervista a Renzi che dice: ne ho parlato con Toro seduto. Ultimo titolo felice, ancora l'Unità, l'ultima rata. Domani si paga, poi addio alla tassa più odiata. L'editoriale è di Gabriele Muccino. L'ultimo bacio. Ed è la storia di tutte le storie fiscali. No, ma scade il limo, cioè, tra l'altro devo pagarla pure io. 800 24 00 24, numero verde 349 238 66 66, sms pubblicità. Mix 24, il canzoniere. Ce l'abbiamo? Ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco s'allenta, si spegne. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, questo lo indovinerei perfino io. Mario, c'è una bolla? Sì. Pensami tanto tanto intensamente. Allora, questo è Julio Iglesias, e c'è un Iglesias di Podemos che cerca di avere un grande risultato che Non credo avrà, vediamo un po' adesso. Poi si vota in Spagna domenica 20 dicembre e sono elezioni molto importanti, poco discusse in Italia, in realtà hanno anche lì una sorta di grillo che appunto si chiama Iglesias. I sondaggi però dicono che i popolari di Rajoy dovrebbero restare in testa, seppur con voti minori rispetto alla ultima tornata. Dovrebbero avere un 25-27%, 110 seggi, devono fare coalizione, vedremo poi il risultato e con chi la faranno, se sarà un governo a guida socialista o se sarà un governo a guida popolare. In ogni caso è importante perché la Spagna ha fatto un programma di riforme molto forte, è riuscita anche a, diciamo così, a raddrizzare la produzione più che la disoccupazione in generale, e vediamo appunto l'esito, come saranno giudicate dagli elettori. Questo è importante perché solitamente chi governa viene punito normalmente periodo, soprattutto in crisi. Sì, sì. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. La mia non è mai stata una ricerca privata, intesa come anelito individuale a Dio, ma si è posta sempre in sinu ecclesia, con immediatezza e totalità, sino ad assumere come suo punto di partenza e come costante condizione del suo esito il rapporto di ubbidienza rigorosa ad un vescovo e quindi il rapporto effettivo con tutta l'intera sua Chiesa. E da parte dei vescovi? Cosa richiede da parte dei vescovi? Richiede una consapevolezza sempre più grande dell'originalità del carisma monastico e anche della sua necessità. È il 1993, Giuseppe Dossetti, mite e provocatorio come sempre, rivendica l'orgoglio e l'autonomia del monachesimo. Il monachesimo, l'ultima tappa di una vita davvero straordinaria, la resistenza, le battaglie politiche nella Democrazia Cristiana di De Gasperi, l'università e il Parlamento. Poi nel 51, 38 anni, la scelta della vita monastica. Giuseppe Dossetti, la forza della profezia, la cultura della pace, qui a Mix 24, dopo il giornale radio. Bene, adesso abbiamo il vincitore, abbiamo un vincitore, sì? Matteo D'Alecco. Matteo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Emozione, ragazzi. Ragazzi, che emozione. Ragazzo io. Ma noi, lei, ragazzo, lei ragazzo? Sono prossimo alla laurea in ingegneria. Sì, ah, fantastico. Anni. Ingegneria, sì, sì, sì. Che ramo dell'ingegneria? Automazione. Automation engineering, oramai tutto in inglese. Vabbè, oramai tutto l'industria dell'automobile tira di nuovo, quindi insomma. Non è automobili. Ah, no. Diciamo, sì, io farò una tesi legata alle automobili, sì. Ma l'automazione è una cosa vastissima. Le macchine sono proprio l'angolino in fondo. Beh, sono la nostra società. Intanto, ha indovinato o non ha indovinato? Ha indovinato. Sì. Non ce l'ha detto, però. Ah, chiedo scusa, è la pioggia in fine, sì, l'annunzio. Giusto! Bravissimo! Ottimo, grazie, grazie. Era facile oggi, beh, no? Oggi era facile. Oggi la faccia la potevo fare anch'io. Quando è che si laurea? Non è arrivato. Mi laureerò, penso, a dicembre anno prossimo. Una tesi molto lunga da fare, purtroppo. Va bene. Per fortuna. Va bene, auguri allora. Auguri per la laurea. Per chiudere, Gloria Guerrera, come sempre, ha scelto Spalle larghe, di Francesco De Gregori. Un uomo con le spalle larghe, ecco cosa ci vorrebbe per te, ti capisca senza farlo capire, e non ti spieghi mai perché, se ti conosca da quando eri piccola, anche da piccolo, immaginava già. Un uomo con le spalle larghe, lo sa ben lui come si fa, lo sa bene lui come si fa. Un uomo con le spalle larghe, la paura non sa nemmeno che è. Se tira freddo alza il bavero, corregge il caffè, può ritornare sporco di rossetto, tanto ha una faccia che non tradisce. Un uomo come ce ne sono tanti, che quando vuole non capisce. Uomo con le spalle larghe, la fortuna non sa nemmeno che è. Ogni sera fa cadere le stelle, ogni mattina le raccoglie con te. E se bastassero le cartoline, te ne manderei. per scaldarti si fa bruciare, diventa cenere a poco, ma non la smetteria mai.